gradite son le sventure mie se mi fan degna d'inchinar tuo merto. Caro amore, conquiderai tu mi ristori il cuore. Dimmi, o bella, felice, chi fu l'ecco cacciando il tuo cordoglio che per farti felice non terrò se fio d'uomo ancor dal soglio. Gran valor, te ma mi imprime stegno. Gelosia tu m'uccidi. Anima forte, fiere, con augusto. Un cor si grande, la tua me ne dimora. Ea, non so voler che sia, un ritardato me, l'anima mia. Te cosso nido, tove più grandi, ho fatto. Il mio germano amato, con dormido se piange noi sorpresso. Che mai sarà? Sorte in costante cieco, le grandaglie oltraggiare, già mai non cessa.